il signore di Saint-Puange, che è stato la causa della sua morte, il quale, sentendosi ed essendo colpevole, promette la sua protezione a Lurone, e Lurone accetta. Non è più un buon selvaggio, è diventato un pessimo cortigiano. C'è stato questo travaso morale. Come lei si è convertita all'onestà, lui si è convertito al fango della mondanità, della convenienza e dell'ascesa sociale. Elric, puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Vi leggo un raccontino mio intitolato Caro Edgar, dove il personaggio è un cinico spensierato e scrive a un amico che non vede da molto tempo e del quale ha sempre rifiutato gli inviti, un amico col quale c'è stato un grande amore che poi è finito, ma sono rimasti amici, e lui da molti anni si rifiuta di andare in vacanza con lui e finalmente si decide a rivelargli perché. La storia si svolge agli inizi del Novecento. Caro Edgar, mi scrivi nella tua lettera che se rifiuterò anche stavolta di venire in vacanza con te, la nostra amicizia sarà finita per sempre e sarò per te come morto. Hai ragione. Sono 15 anni che ogni estate mi inviti e io con una scusa dico di no. E tu mi porti rancore perché pensi che ti abbia dimenticato. Non è vero. Se ti ho fuggito è stato solo per paura che tu scoprissi il mio segreto. Ma ora ho deciso di dirti la verità. Ti confesso dunque il segreto che mi perseguita da 15 anni, dalla morte di Edna, Edgar. Sogghignerai. Lo sapevo io che quella strega c'entrava in qualche modo. Sì, ma non nel modo che pensi tu. Un modo che, sappilo, mi offende. Quel tuo insopportabile sguardo, come se ci fosse stato qualcosa tra me e lei. Come hai osato pensarlo? Tu mi sospetti nel mio rigore più caro, che non ho mai tradito e che mi è costato alcuni imbarazzi dall'infanzia a oggi. Il suo rigore più caro parla della sua inclinazione verso i maschi. Ma ascolta, dobbiamo tornare ai miei 30 anni. Ricordi la metamorfosi del mio fisico? Da sirenetta della moda mi ero trasformato in un bel giovane, elegante e sobrio. Lui racconta che ha lasciato il suo lavoro nella moda per fare qualcosa di più serio. Trova dei vecchi appunti, pensa che in fondo potrebbe anche scrivere. Però dice scrivere è una cosa da ricchi. E proprio allora io stavo finendo i soldi guadagnati col mio lavoro. Di farmi violenza rimettendomi a lavorare non ci pensavo neppure. Chiedere agli amici. Ne avevo abbastanza perfino della tua generosità, mio generosissimo Edgar. Ti dovevo tutto e non ero niente. Pensa che imbarazzo. Per completare la disfatta, Luis, il giamaicano, m'aveva messo a terra con una fuga improvvisa. Non ne potevo più. Avevo bisogno di un rifugio per mettere insieme i pezzi, per riflettere. Sognavo di scrivere un grande libro sulla mia pochezza, un ode al fallimento, oddio sa cosa. Ma soprattutto volevo essere alloggiato e nutrito gratis, da gente buona e innocua, che non mi chiedesse niente in cambio. Volevo godermi la mia condizione di aspirante scrittore, riempiendo 100 pagine al giorno o mettendomi le dita nel naso, a mio talento. In un'irresponsabile beatitudine infantile, senza tributi al lavoro o alla riuscita. Sognavo una tregua, per vedere cosa sarei riuscita a fare di me. Probabilmente niente, ma ero pronto anche a questo, purché mi si lasciasse in pace. Allora chiesi ospitalità a Edna, mia cugina. Edna, da piccola, mi voleva bene. Maggiore di qualche anno, mi difendeva contro i suoi fratelli, 3 assassini che ricordo ancora con terrore. Appena facevo uno sgorbio, lei diceva diventerei un grande pittore, oppure la recita casalinga diceva che sarebbe diventato un grande attore. Insomma, Edna, fin da piccola, ha una fede incrollabile nel fatto che suo cugino diventerà un grand'uomo. Quindi si presenta a casa sua. Non faccio in tempo a dire, se fosse possibile per qualche mese stabilirmi da voi, che lei rispose, per me puoi restare anche tutta la vita. Quella frase avrebbe dovuto mettermi sull'avviso. Mi trasferii coi bagagli, in salvo. Appartamento per gli ospiti, vista sul parco. Larghezza di vedute non avrebbero fatto caso ai miei costumi purché mi fossi comportato bene a tavola, cosa che, come sai, mi viene spontanea. L'alloggio era ben messo anche come svaghi. La vicinanza del porto mi consentiva incontri sostanziosi e senza conseguenze. Potevo vivere come un monaco e come un libertino, l'ideale. Grazie al mio fascino di ragazzo riservato, ero diventato il prediletto delle serve. A tavola si facevano in mio favore delle ingiustizie clamorose. Tanto che Adone, il marito di Edna, si adombrò. Una sera che c'era l'arrosto d'anatra e a lui ne toccò pochissimo. Allora io, imbarazzato, per giustificare la mia presenza in quella casa e soprattutto il piattone che avevo davanti, dissi che stavo scrivendo un libro. Quell'incauta confessione fu l'origine di tutti i miei guai. Edna, mio Dio, colsi nel suo sguardo l'ammirazione sconsiderata di quando era bambina, aggravata dall'età, e mi disse: diventerai un grande scrittore. Quella sera, giusto appunto, non riuscii a scrivere niente. L'idea che Edna, nella stanza attigua, mi credesse un genio, trapassava i muri, mi bloccava la mano. Buttai via la penna e vuotai la fiaschetta del cognac e cominciò l'inferno. Ormai che avevo detto del libro, tutto cambiò, in peggio naturalmente. Mi trovai circondato da un rispetto degno di Tolstoi e non di un disgraziato che non sa ancora chi è e cosa vuole essere. Mentre lavoravo, ovvero stavo chiuso in camera, Edna aveva imposto in casa un silenzio di morte. Oh, Edgar, mi avesse lasciato almeno qualche rumorino della vita, una pentola che sbatte, un bambino che frigna. Niente. Edna, la pazza, per eccesso di fede, mi creava attorno il vuoto. Lei mi ha rovinato, Edgar. Non ne potevo più della sua ammirazione. Per farle passare dal grugno la sua aria estatica, al mio apparire, cominciai a fingermi peggiore di quel che ero e a diventarlo. Provai a deluderla in tutti i modi. Dicevo apertamente che ero un ozioso e il libro un pretesto per farmi mantenere. Lei sorrideva e mi guardava come gli uomini guardano il Dio. Provai con la maleducazione. Non mi lavavo più i denti, ruttavo a tavola, davo ditate di sugo nella tovaglia. Io mi facevo schifo. Lei sorrideva. Diceva che c'era in me qualcosa di straordinario che si stava facendo strada e non bisognava badare alla forma. Sorrideva a mie spese. Cominciai a invidiarla. A invidiarla furiosamente perché vedeva in me una bellezza che a me sfuggiva. Provai un sentimento di avarizia. Mi sentivo derubato. Edna minava la mia insicurezza, amorosamente covata per tutta la vita. E poi cosa voleva? Perché quando passeggio in giardino lei mi guarda nascosta dietro la tenda? Perché ha quegli occhi lucidi? Che voglia fare di me un grand'uomo? Peggio. Lei voleva che io diventassi me stesso. Me stesso. Che spavento. E chi voleva esserlo? Tu lo sai, io non odio le donne. Ma quella stava davvero esagerando. Quella voleva l'anima, caro mio. Io, lo sai, non l'ho mai avuta. Il mio sforzo più onorevole fu sempre quello di scansare la vita. E la profondità mi infastidisce. Fra te e me, Edgar, da sempre si convenne un amore fatto di lievi scherzi. Il buon gusto ci ha sempre trattenuto dal fare discorsi seri, e in questo è il sale della nostra amicizia. Ma Edna, che Dio la sprofondi, poverina, l'ha sprofondata da un pezzo, era donna. E quelle la leggerezza non sanno nemmeno cos'è. Conosci, vero, la materia vischiosa che ti piomba addosso quando piace a una donna? E il senso di noioso pericolo, di spiegazioni, e poi a che scopo? Acuccia, Edna! Cominciai a usare l'autorità che avevo su di lei. A farla trottare, a soffocarla di commissioni servili, così intanto la tenevo lontana. E quando lei non c'era, qualcosa riuscivo a fare. Se non altro, a mettermi le dita nel naso, senza distrazioni. Nulla che le potesse disgustare o correggere la visione che aveva di me. A tutte le mie bassezze reagiva sempre con quel suo sorriso. Cosa avrei dato per cancellarglielo dalla faccia, Edgar? Mi rendeva nervoso. La fede di Edna nel mio libro lo rendeva, come già fatto, inutile. Edna mi riempiva di un successo totale, che in fondo appagava la mia diabolica pigrizia. Mi drogava, mi viziava. E poi, ma non capire male, per favore, lei mi faceva ridere. Mi rallegrava nel profondo, Edgar. L'ho uccisa perché mi faceva ridere. Non guardarmi storto. Io certe volte mi sentivo trascinare dalle sue parole, come perdendo il corpo. La stanza ruotava. Quella lì era il diavolo, Edgar. E inoltre mia cugina possedeva le chiavi del mio passato, la stramaledettissima infanzia, la grande persecuzione. Lei lo sapeva. Ebbi la debolezza talvolta di seguirla nel salottino cinese. Mi dava l'oppio quella. Certe pipe eleganti di nonno Hans, ben fatte, e fuma, fuma. Le donne, Edgar. Io fumavo, ignaro. L'oppio imbrogliava le luci e nell'oro del paralume mi pareva rivederci con Edna, bambini. Siamo nascosti in soffitta. Lei ha la faccia gonfia di botte. Gliele hanno suonate perché ha dato via la pelliccia della mamma a una zingara che bussò alla porta. La conosco io. Per fare un dispetto alla madre e bella figura con la zingara. Perfino le sue buone azioni erano in lei solo una beffa. L'hanno mandata quassù per punizione e senza cena. Con una candela salì su per la scala, di nascosto, portandole il pane e una mela. Lei mangiava strappi come i leoni, diceva «un giorno mangerò così mio padre e mia madre». Scoprirono che avevo soccorso Edna. Quando ci rivedemmo, avevo anch'io la faccia piena di botte. La guardiana del faro. Stavo leggendo un mio racconto intitolato Caro Edgar, che si svolge agli inizi del Novecento ed è la storia di questo giovane che non ha voglia di far nulla, ma la cugina, che è innamorata pazza di lui, e lo sprona sempre dicendogli che è un genio e sta cercando di conquistarlo castamente, ma nel profondo del cuore. Fu l'oppio, fu l'ozio o il lungo inverno. Poco a poco cominciai a chiudermi con lei in una festa tra le più misteriose. Mi ero assicurato prima che non avesse cattive intenzioni. La mia severità era ben ripagata. Edna non mi sfiorava neppure per caso e certe mie occhiatacce l'avvertivano di stare molto attenta. Non so perché, Edna istigava in me i peggiori istinti maschili del comando, della tortura. Quei pomeriggi d'oppio, lei mi faceva sdraiare sul divano rosso e ai miei piedi irradiava uno splendore che mi ripugnava e mi attraeva, come fuochi in sogno. E che te, che dolcetti, elogi inebrianti come atti osceni. Fuori la neve. Beh, io mi facevo adorare. Edgar, finché un giorno, mentre sto lì a farmi adorare, col raccapriccio mi accorgo che io sto adorando lei. Mi si drizzano tutti i capelli in testa, la caccio via a spintoni. Hai capito, Edgar, dove arrivano le donne? Ho fatto bene a ucciderla. Che poi col tempo era diventata sfrontata. Figurati che un giorno, appena allentai la sorveglianza per un istante, volò addirittura la parola amore a me. Ho fatto la faccia tremenda di nonno Hans quando gli chiedevamo i soldi per la giostra. Le pianto in faccia gli occhi del nonno e tuono «Cosa hai detto? Ripetilo se hai coraggio!» «No, io...» «Non ha coraggio, meno male. Balbetta, io...» «Zitta, fammi il caffè!» Edna fila in cucina a capochino, ma sento che ridacchia tra sé. Ridacchio anch'io, da solo, anzi mi sganascio, per farmi sentire, per farle capire che anch'io godo un po' di me stesso, che non riuscirà a derubarmi del tutto. Era la peggiore delle donne, Edgar. Quando ecco quel disagio che provavo da qualche tempo in casa, si precisa. Mi accorgo che Adone, il marito, è follemente geloso di me, che le serve spettegolano, come se fra me e lei la mia reputazione andata. Passare per una chiappa femmine, io, che fin dall'infanzia ho saputo tenerle a bada con tutti i loro intrighi. Ora per colpa sua segnato a dito, guardato torvamente dal marito geloso di una donna. Questa scoperta mi fa sentire male, tanto che appena bevo un po', vomito a schizzo sul tappeto persiano. Accorre Edna, indiscreta come sempre, pulisce il vomito. Io però ne sono un po' contento, chissà che finalmente non le venga schifo di me. Sto davvero male, svengo. Mi sveglio sul letto pulito e lei, beata, mi rimbocca le lenzuola. Fingo d'essere ancora svenuto per spiarla. Lei si china su di me, la sua boccaccia protesa, su di me, finto svenuto, inerme. «Ehi, questa vuole baciarmi! Qui non si può svenire un attimo che sono perduto! Io non odio le donne, lo sai, basta che non si accostino!» Prima che possa sfiorarmi, salto su come un ossesso, mi attacco al campanello. «Aiuto!» grido! Accorre la cameriera. Io guardo Edna, la ladra, come un buon cittadino che si è riuscito ad avvisare il poliziotto. «Aiuto!» dico ormai tranquillo, mi sento male. Beh, perfino questo alimentò la sua estasi per me. Basta. Le strinsi affettuosamente il collo. Le mie mani cominciarono ad affondare. Mentre ascoltavo compiaciuto il suo ultimo rantolo, rimasi esterrefatto. Quel rantolo era un riso. Come se l'essere strozzata da me la divertisse più di ogni cosa al mondo. Per dispetto allentai la stretta. Troppo comodo morire di mia mano. Troppa soddisfazione. Entrò Adone. Mi sorprese con le mani attorno al collo della moglie. Ci credette amanti. Fece una scenata. Lei mi difese. Il mio onore esigeva una riparazione. Edgar. Jimmy Dean. Corro al porto. È appena arrivata una nave dall'Irlanda. Raccatto due marinai monumentali. Petto in fuori, facce di bronzo, due forzuti con la maglietta a strisce come in un quadro di maniera. Li porto a casa. Ubriachi, fradici, non risparmiamo il fracasso. E in camera, poi. Una sbronza da restarci morti. E tutta una notte di deliziosi atti innominabili. Due irlandesi insieme, non ricordo i nomi. Che notte. Spero che mi sentano. Spero che la porta si spalanchi. Che entri Adone e mi cacci di casa per atti di sodomia aggravata. Sotto gli occhi delle serve, finalmente riabilitato. E Edna dovrà pur finirla di ridere. Una buona volta. All'alba, anche se stravolti, i due buoni marinai vorrebbero filar via senza farsi vedere, sapendomi ospite. Ma che? Li tengo a dormire. Russiamo a lungo. Verso le 11 mi sveglia un raggio di sole. Mi stiro, beato. Pregusto la mia vittoria, lo scandalo. La vedranno chi sono io. Basta con gli equivoci. Ma cos'è questo silenzio? Un silenzio innaturale, opprimente. Lo stesso che Edna mi crea attorno quando faccio finta di lavorare. Che non ci sia nessuno in casa? Mi affaccio in corridoio e vedo l'orrenda scena. Edna, con una scopa in mano, tiene a bada la muta dei servi, figli e marito, veglia sul sonno mio e dei marinai, con un piglio, come se fosse il suo ultimo gesto in quella casa. Dico agli irlandesi, rivestitevi ragazzi, e mi raccomando, non salutate. Passiamo davanti la famigliola a testa alta, per mascherare il disonore. Ma che vergogna, amico. Le mie orge protette da una casalinga. Edna sorrise ai marinai e io avevo una voglia sempre più amara di guastarle la festa. Rock on! Rock on! Rock on! Rock on! Nonostante io non le risponda più, lei mi parla con intimità crescente. Appoggiata alla finestra, questa visionaria vede chissà cosa e mi dice che ho una grande vocazione, che non sa quale, ma ne è sempre più certa. E se la buttassi dalla finestra adesso, mentre appoggiata al davanzale, mi ricorda i soliti ricordi. Ti ricordi quella volta al mare? Sì, mi ricordo. Edna mi portò a nuoto fino a un isolotto. Io ero stanco, ancora troppo bambino, stavo per piangere. Lei disse, un giorno ti porterò ancora più lontano. Dove, dissi io, che volevo tornare a casa, nella città di Macomer, che è assai lontana. E quando? Chiesi spaventato. Quando avrò una barca per andare nei mari, mi rassicurai. Edna una barca non l'avrebbe mai avuta. Al massimo un marito ricco che le desse però pochi soldi, temendo la sua follia. Ciò che puntualmente avvenne. La spingo? Non la spingo? La butto di sotto? Sì, la spingo. Questa è capace di volermi ancora portare a, come si chiama, morsa tua, vita mea. Però buttarla giù mi dispiace. In fondo io voglio bene a Edna. Non voglio che si sfracelli e tutti lì a guardare. No, ci voleva un modo indolore. Mentre lo cercavo, feci un estremo tentativo per salvarle la vita. Ogni volta che si presentava in camera mia, senza una parola, le davo due schiaffi e le sbattevo la porta in faccia. Lei prese a venire ogni giorno alla stessa ora. Riceveva la sua razione di busse quotidiane, senza compiacimenti con puntualità. Io ho certe mani, lo sai, e ci davo dentro. E lei mi infurio ancora se ci penso. Lei sorrideva, Edgar. Trovai il modo. L'avrei avvelenata. L'importante è che non se ne accorga. Che nell'agonia, figurati come si sfrenerebbe. La invitai a un tè da me. Lei teneva gli occhi bassi, la vittima ideale. Da un anello rinascimentale versai nel tè la polverina mortale. Misi molto zucchero. Trepidante le porsi la pozione e per l'emozione della mia gentilezza le tremavano le mani. Per Dio, purché non lo rovesci. Lei accosta le labbra. Edna, no! Ma il suo sorriso. Bevi, bevi, è buono. Cadde stecchita, a faccia in giù, sul tavolo da tè. Morta. Era ora. Edna, cugina mia stupidissima, ostinata bambina. Un imprevedibile istante di commozione, forse perché non ho più nulla da temere. Stavo per baciarla dietro l'orecchio, soddisfazione che mai le avrei dato in vita, ed ecco, vidi, anche da morta, quel sorriso, quella radiosa sicurezza sulla mia persona, la mia condanna. La morte l'ha lasciato intatto, così fiducioso, così incrollabile, da farla sembrare viva. Sorrideva Edgar. Allora le cambiai la piega della bocca. Le disegnai la delusione per me, finalmente. Contemplai poi quell'espressione che le avevo inventato, di volgare disprezzo, di indifferenza. Le plasmai la bocca di una che non aveva mai riso, né fatto ridere. Unta suprema. Lasciai che accusassero Adone, il marito. Così impara a essere geloso. Mi mostrai al funerale. Un abito nero, un garofano rosa. Ero così bello che mi venne da piangere. Piacqui molto. Un bel funerale. E nel vento di primavera, in quella lunga passeggiata, dimenticai Edna. Mi sentivo libero. Lei morta, lui all'ergastolo. Eccomi vendicato. E con eleganza. La casa passò a me in eredità. Il testamento di Edna mi assegnava una pensione che mi consentirà di oziare finché avrò vita. I bimbi perirono, povere anime, di Spagnola, liberando l'intero patrimonio. Potrei essere felice. Una sola cosa me l'ha impedito. Non avere il coraggio di confidarmi con te. Ora, ti conosco, vecchio cinico. Direi che bisogno c'era di questa confessione. Non potevi farne meno? Non temere. Non concluderò dicendo se dobbiamo ancora dormire insieme, sappi che sono un assassino. No, no, c'è di peggio, e ora te lo dirò. Se dobbiamo dormire di nuovo insieme, devi sapere. Quella appare, Edgar. Non parla, sorride. Io ho anche smesso di sputarle in faccia, che tanto ai fantasmi non gli fa né caldo né freddo. Ci seguirà anche al mare, ne sono certo. Mi segue dovunque. Te l'ho detto perché, vedendola appollaiata sulla spalliera del letto, tu non abbia a pensare male. Edna non appare perché sono stato il suo amante, ma solo perché l'ho uccisa. Ci sono ombre che si affezionano anche per motivi meno importanti. Non è pericolosa, anzi, da spettro è migliore che da viva. Adesso sta lì buona buona, quieta, di buon umore. Ora sono io che d'inverno talvolta le parlo. All'inizio un po' sconcerta, ma poi basta non badarle. È come un gatto di casa, una vecchia familiare presenza. Se vedi Edna mentre nuoti, non affogare, è un'illusione. Se la vedi quando sei a tavola, un po' malinconica, salvo quel sorriso, tu mangia d'appetito, tracanna il vino. Coi fantasmi bisogna far finta di niente, sennò quelli si appiccicano. E quando, di notte o di giorno, sentirai il suo fiato sul collo, il fiato erboso dei morti, fai come niente, Edgar. Basta non badarle. A parte questo piccolo fastidio, il resto tra noi sarà tutto come prima. Ho tenerezza e impazienza di rivederti, di fare da più vecchi le cose di un tempo. Da abbronzato sei ancora così bello, Edgar. E riesci a correre su per la collina fino alla cima senza fermarti mai? Ma ci diremo tutto. Da ora avremo tempo e sta tranquilla. Quella non interviene nei discorsi. Anzi, per favore, non nominarla mai. Ci rovineremo la vacanza. Per me l'argomento è chiuso. Voglio con te parlare di come si vestono a Vienna e delle novità teatrali e di quel tuo parrucchiere. Non dirmi che ti ha abbandonato. Eppure hai un taglio così elegante. Stai invecchiando, Edgar, penserò. Mentre ti dico, sei un vero splendore. Anzi, dimmi, come si fa a rimanere così? Avremo due bastoni da passeggio, daremo colpi ai ciottoli, ancora insieme e senza ombre. Una sì, ma noi non ci faremo caso. Con impazienza, tuo Adolf. Questo raccontino, che ho scritto tanti anni fa, aveva uno dei grandi moventi della letteratura, la vendetta. Ero fortemente innamorata di un giovane gay e anche lui mi amava a suo modo, un po' come Adolf ama Edna, e quindi mi ero vendicata garbatamente e amaramente con questo racconto. La guardiana del faro. Ecco, si usa in maniera molto impropria la parola narcisista. Appena uno si guarda allo specchio, diciamo, quello è un narciso. Piano. Non tutti i narcisisti hanno la grandezza di Narciso di morire davvero per amore di sé. Moltissimi si detestano. E per riportare un po' la parola al suo significato originario, ecco come lo racconta Ovidio nelle Metamorfosi, e lo leggerò nella traduzione di Piero Bernardini Mazzolla. Tutto comincia sempre nel mondo classico da qualche profezia, e qui abbiamo l'indovino per eccellenza, Tiresia. E Tiresia, divenuto famosissimo per le città dell'Aonia, dava ineccepibili risponsi alla gente che lo consultava. La prima assaggiare la veridicità delle sue parole fu l'azzurra Liriope, che un giorno il Cefiso aveva intrappolato nelle curve della propria corrente, imprigionato tra le onde e violentato. Ancora sempre questo vizio degli dèi, che non seducono mai, loro violentano. La bellissima ninfa, rimasta incinta, aveva partorito un bambino che già appena nato meritava di essere amato e lo aveva chiamato Narciso. Interrogato se Narciso avrebbe avuto una lunga vita, l'indovino aveva risposto: se non conoscerà se stesso. Ma sembrava una cosa generica e se ne dimenticano subito. Lui arriva ai 15 anni e continua ad essere di grande bellezza. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe, full of sorrow. Molti giovani, molte fanciulle lo desiderarono, ma quella tenera bellezza era di una superbia così ostinata che nessun giovane, nessuna fanciulla mai lo toccò. Un giorno, mentre spaventava i cervi per spingerli nelle reti, lo vide una ninfa dotata di una voce sonora, che non sapeva tacere quando uno parlava, ma neppure sapeva parlare per prima. Eco, che rimanda i suoni. Eco aveva allora ancora un corpo, non era una voce soltanto. Finché c'è la solita gelosia di Giunone verso Giove, che punisce Eco per aver attirato l'attenzione di suo marito, Giunone le dice: da questo momento farai della voce un uso ridottissimo. E alle minacce fece seguire i fatti. Solo quando uno finisce di parlare, Eco duplica i suoni, ripetendo le parole che ha udito. Ora, quando Eco vide Narciso vagare per solitarie campagne, se ne infiammò e ne seguì di nascosto le orme. E quanto più lo seguiva, tanto più, per l'accorciarsi della distanza, si scaldava, come lo zolfo vivo e tenace spalmato in cima a una fiaccola, divampa se vi si accosta il fuoco. O quante volte avrebbe voluto abbordarlo con dolci parole, rivolgergli tenere preghiere. La sua natura si oppone, non le permette di cominciare. Però sta pronta ad afferrare i suoni, per rimandargli le sue stesse parole. Se il fanciullo si sperde dai suoi fedeli compagni e dice: «C'è qualcuno?», Eco risponde: «Qualcuno». Lui si meraviglia e, cercando con gli occhi da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!». E lei chiama lui che la chiama. Egli si guarda dietro le spalle e, poiché anche questa volta non vede nessuno, «Perché?», dice, «mi fuggi?». E quante parole pronuncia, altrettante ne riceve. Insiste, smarrito dall'imbalzare della voce, dice: «Qui riuniamoci!». Ed Eco, che nessun suono mai risponderebbe più volentieri: «Uniamoci», risponde. E decisa a far come dice, esce dal bosco e si fa avanti per gettargli bramosamente le braccia al collo. Lui fugge e nel fuggire... «Giù le mani! Non mi abbracciare! Preferisco morire piuttosto che darmi a te!» Ecco, risponde «Darmi a te!» Ma l'amore resta confitto in lei e cresce per il dolore del rifiuto. Questo amore non corrisposto la fa deperire in modo pietoso, finché si assottiglia tanto che non rimangono che la voce e le ossa. La voce esiste ancora. Le ossa, dicono, presero l'aspetto di sassi. E così sta celata nei boschi e non si vede su nessun monte, ma dappertutto si sente. È il suono che vive in lei. Ma Narciso non aveva deluso soltanto Eco, aveva deluso, come dice Ovidio, anche tante altre ninfe e anche frotte di maschi. Finché un giorno uno di questi maschi, disprezzato, levò le mani al cielo e disse che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama. Così disse, e Nemesi assentì a quella giusta preghiera. C'era una fonte senza un filo di fango, dalle acque argentate e trasparenti, cui mai si erano accostati pastori o caprette, che mai era stata agitata da un uccello o da animale selvatico o da un ramo caduto da un albero. Tutto intorno c'era erba, rigogliosa per vicinanza dell'acqua, e una selva che mai avrebbe permesso a quel luogo di essere intiepidito dal sole. Qui il fanciullo, spossato dalle fatiche della caccia, si getta a bocconi, attratto dalla bellezza del posto e dalla fonte. Ma mentre cerca di bere, un'altra sete gli cresce. Un amore che non ha corpo. Crede che sia un corpo quella che è un'ombra. Attonito, fissa se stesso, cioè si sta specchiando. Senza riuscire a staccare lo sguardo, rimane immobile come una statua. Disteso a terra, contempla le due stelle che sono i suoi occhi. E i capelli, degni di Bacco, degni anche di Apollo, e le guance impuberi, e il collo d'avorio, e la gemma della bocca, e il rosa soffuso sul candore di neve, e ammira tutto ciò che fa di lui un essere meraviglioso. Desidera, senza saperlo, se stesso. Elogia, ma è lui l'elogiato. E mentre brama, si brama, e insieme accende e arde. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Quante volte non dà vani baci alla fonte ingannatrice? Quante volte non tuffa nell'acqua le braccia per gettarle attorno al collo che vede, ma nell'acqua non si afferra? Ingenuo, che stai a cercare di afferrare un'immagine fugace? Quello che brami non esiste. Quello che ami, se ti volti, lo fai svanire. Quella che scorgi è un'ombra, è il riflesso della tua figura. Né desiderio di cibo, né desiderio di riposo riesce a staccarlo da lì. Tende le braccia verso le selve e dice: «C'è qualcuno, selve, che abbia sofferto d'amore più crudelmente? Vi ricordate di qualcuno nella vostra lunga esistenza che si sia consumato così? E ciò che più mi affligge non è che ci separi un gran mare o un lungo cammino o dei monti, ci divide solo un sottile velo d'acqua. E lui vorrebbe essere preso. Tutte le volte infatti che porgo baci alla limpida onda, tutte le volte si protende verso di me offrendo la bocca. Diresti che si può toccare, è un nulla che si oppone al nostro amore. Chiunque tu sia, vieni fuori. Perché mi illudi, fanciullo unico al mondo? Dove te ne vai? Mentre io ti desidero, e sì che la mia bellezza e la mia età non sono da disprezzare, mi hanno amato anche delle ninfe. Con sguardo amichevole mi prometti e mi fai sperare chissà che cosa, e quando io tendo le braccia verso di te, subito le tendi anche tu. Quando rido, ricambi il riso. Già è pure, David. si accorge, perché tutto quello che fa l'altro lo imita, e nella sua testolina, forse un po' leggera, dopo molto tempo si fa strada a questo pensiero, si accorge che si sta specchiando, anche se il giovane Narciso ignora l'uso dello specchio, a sue spese lo impara, davanti alla fonte. «Ma questo sono io! Ho capito, e la mia immagine non mi inganna più! Brucio d'amore per me stesso, suscito e subisco la fiamma, che devo fare? Farmi chiedere? Oppure chiedere io? Ma poi, chiedere che? Quel che bramo l'ho in me, ricchezza che equivale a povertà. O potessi staccarmi dal mio corpo, desiderio inaudito, e la morte non mi è gravosa, poiché con la morte finirà questa pena. Ma vorrei che l'altro, l'amato, vivesse di più. Ora invece morremo congiuntamente, spirando due, un'anima sola». Così dice, e delirando torna a ricontemplare la figura e con le lacrime turba lo specchio d'acqua che si increspa e la forma si offusca. Le ultime parole che egli pronunciò, tornando a guardare ancora una volta nell'acqua, furono: «Ah, fanciullo invano amato!» E il luogo gli rinviò altrettante parole, perché c'è Eco nascosta nel bosco che lo guarda. E quando disse addio, anche Eco disse addio. Reclinò il capo stanco sull'erba verde. La morte buia chiuse quegli occhi, che ancora ammiravano la forma del loro padrone. Anche dopo, quando fu accolto nella sede infernale, continuava a contemplarsi nell'acqua dello Stige. Limitless and dying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Levarono lamenti le naia di sue sorelle, si tagliarono i capelli e li offrirono al fratello. Levarono lamenti le driadi, ed Eco risonando si unì a quel coro di dolore, e già preparavano il rogo e le fiaccole da agitare e il feretro. Ma il corpo era scomparso. Al posto del corpo trovarono un fiore, giallo nel mezzo, e tutti intorno petali bianchi. Capitaneria di Porto, l'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è anche in libreria, con le lettere e i racconti sull'amore letti da Barbara Alberti a Radio 24. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.